24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Siamo qua, sono le 6:33 minuti, allora, con il passerotto e il tacchino. Pierluigi Bersani ha nettamente vinto con il 60%, e Rotti è lui il candidato premier per il centro-sinistra. Buongiorno cari italiani, siamo svegli con Miriam Lucchetti in redazione, con il nostro alpino Peter Bescapè in regia e con il nostro bar che può aprire finalmente anche questa settimana, anche se lunedì. Siamo carichi con la nostra bella Nicole. Il caffè volentieri a tutti quanti. Nicole Minetti che offre il caffè a tutti quanti, come sempre. Intanto voglio salutare il nostro amico Alberto Forchielli. Buongiorno. Dove si trova Alberto Forchielli nel suo peregrinare per il mondo? Monaco di Baviera. Allora oggi bella sveglia, si è svegliato come noi, mica come in Cina. No, io sto sveglio dalle due. dalle due che fa? Cosa fa Forchielli alle due? Cioè fa girare l'economia alle due, Forchielli? Perché alle due ha già aperto Tokyo e apro i miei uffici di Pechino e Shanghai, per cui avete capito, no? Avete capito, razza di debosciati che non siete altro. Forchielli si sveglia alle due perché lì c'è Tokyo che è già aperta, gli uffici di Shanghai sono già aperti, bisogna far girare il grano, no Forchielli? Sì, e adesso, finita la trasmissione, da nanna. Mi sembra giusto. Allora, io voglio salutare anche Bimbo Alieno. Buongiorno e benvenuto. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Pensavo di essere io quello legato ai ritmi dei mercati. Infatti, hai visto Bimbo Alieno? Qua Forchielli ci dà tutti, come si suol dire, no? Alle due sveglio, Tokyo è già attiva, gli uffici di Shanghai sono aperti e si vive così, no? È giusto, Bimbo Alieno, deve fare l'economia, deve far girare l'economia Forchielli. Insomma, se non ci pensa lui, dobbiamo farlo noi. Allora, che dire? Vabbè, avrete seguito. Allora, Forchielli, ha visto? L'usato sicuro ha battuto il format Renzi. Format l'ha chiamato lei. Tutto come previsto. Le truppe cammellate sono andate e hanno votato Bersani. Le truppe cammellate sono quelle che sono quelle, no? Di dove sono? Di Ferrara, Modena, Piacenza, Imola, tutti a votare. Dall'Emilia, da Bonchidoro, tutta quell'area del centro erano quelle autorizzate a votare, hanno votato, ma del resto è giusto così, perché il partito si rispecchia in Bersani. Renzi è un'anomalia. È un'anomalia. Se Renzi casomai avesse vinto, avrebbe spaccato il partito. Ma già così qualcuno dice che l'abbia un po' spaccato. Infatti il tema è ora che succede. Ma vogliamo sentire la battuta di Renzi, che in realtà l'ha colta su Twitter. Non è male questa. Ieri di Enrico Mentana, nello speciale, sentite Renzi. Comunque la battuta più carina l'ho letta su Twitter. Sai cosa mi hanno scritto? Mi è arrivato un commento appena ho fatto il mio messaggio e mi hanno detto, dice, finalmente Renzi ha fatto una cosa di sinistra, ha perso. Ecco, queste sono la battuta più cattiva, me l'hanno fatta su Twitter. Ho fatto anch'io una cosa di sinistra. Eccolo qui, ho fatto anch'io una cosa di sinistra, ho perso, Forchielli. Questa è la battuta che gli è venuta così. Non male, come battuta non male. Simpatica. Comunque con Renzi non finisce lì, perché o lo recuperano, perché adesso il PD ha bisogno di recuperare al centro. Sì. Ok? Quindi o tentano la manovra di recupero su Renzi, lo inquadrano, perché sono scoperti sul centro, perché hanno fatto la manovra con Vendola, o lo recuperano. O se no Renzi è destinato a fondare un altro partito. E infatti questo è il tema che qualcuno dice potrebbe aprirsi ora. Bimbo Alieno, che fa? Ti buttiamo nell'analisi politica altro che nell'analisi finanziaria. Che farà ora Renzi e che farà il PD? Bersani ha detto che bisogna inglobare, includere. Anche D'Alema ha detto adesso, avete capito? D'Alema ha detto, ma perché Renzi è una risorsa, bisogna tenerlo con noi, potrebbe portare voti. A parte, che succederà adesso di tutti sti voti di Renzi e Bersani? Ma guarda, D'Alema dice così perché molti pensano che ci siano i vari dalemiani, in realtà è D'Alema che è forchigliano. Questa è forte, eh? D'Alema che è forchigliano, Forchielli sarà svenuto, vabbè, vai avanti. No, vista anche la vicinanza, voglio dire, con la Camusso, D'Alema non poteva restare insensibile. No, detto questo, credo che veramente adesso sia un po' il momento dello step two, no? Cioè della prova che queste primarie non fossero appunto disgreganti, ma fossero un elemento di confronto interno. La prima reazione di Renzi è stata dire adesso collaboreremo, saremo leali, e quindi è un banco di prova importante anche per le primarie del futuro, voglio dire. Per le primarie del futuro in che senso? Quale? Ma nel senso che dobbiamo fare altre, no? Aspetta, ma no, basta. Certo che ne faremo altre fra 5 anni, voglio dire. Vabbè. Ma voglio dire, bisogna creare un precedente positivo, visto che è una cosa molto un meccanismo molto acerbo per noi in Italia rispetto agli Stati Uniti, per esempio. Bisogna evitare che queste primarie creino il precedente per cui poi chi perde disgrega, esce, perché si rischia poi di non ripetere quello che secondo me comunque è un esperimento. Ho capito, ma qua la questione è molto semplice. Renzi, se rimane all'interno, ha fatto una battaglia dicendo: ho fatto questa battaglia per vincere, non è che, e infatti abbiamo perso, non è che trova scuse dicendo: non è che possiamo dire eravamo qui per partecipare, volevamo vincere, volevamo cambiare il paese, volevamo cambiare la politica del centro-sinistra. Mi chiedo, come fa a rimanere all'interno di questo partito e non venirne inglobato in una sorta di, insabbiato, tutto quello che ha portato, di giusto o sbagliato che sia, tutta la novità che ha portato Renzi, se rimane all'interno di questo partito che si è detto chiaramente stiamo con Bersani, l'elettorato di centrosinistra, con Bersani, quindi con tutta la dirigenza del PD, quella che lui in parte voleva rottamare, come fa a rimanere insomma lì e cercare di far emergere le proprie idee? Questo è il tema. Ma sentiamo anche Bersani ieri. Chi è che voleva dire qualcosa? Volevo dire che anche Hillary Clinton voleva imporre la sua linea all'interno del Partito Democratico Americano, però ha perso, ha vinto le primarie Obama e Hillary Clinton ha appoggiato Obama. Ma sicuramente, ma Renzi lo farà. Renzi l'ha detto adesso: appoggeremo per la vittoria le politiche del centro-sinistra per Luigi Bersani, ma bisogna capire cosa vuol dire. Il partito si chiama Democratico, sono stati interpellati gli elettori del partito per chiedere quale linea politica andava portata avanti, gli elettori hanno scelto quale linea politica, per cui gli elementi del partito, ascoltando... Sì, ma d'accordo, ma la politica, poi ci sono le dichiarazioni di facciata e poi ci sono le cose che succedono. Al momento 97% dei parlamentari del PD sono bersaniani. Renzi può accettare che nel prossimo Parlamento il 97% siano contro la sua linea? Ecco, questa è la domanda. Forse vuol mettere qualcuno all'interno del Parlamento per tentare una scalata futura al partito. Ma sentiamo Bersani ieri dopo la vittoria. Mettiamoci forza, mettiamoci energia e mettiamoci anche un po' d'allegria, che è un tratto del nostro popolo. Siamo italiani, no? È un po' di convinzione, un po' di tranquillità, è un po' di serenità. Non bisogna agitarsi, non bisogna intimorirsi. Bisogna essere tranquilli e forti e decisi. Forchielli, tranquilli, forti e decisi, italiani, altro che feccia, come dice lei che siamo, no, puntato sull'italianità, siamo italiani, un po' di allegria, Forchielli. Sì, beh, allegria, perché è stato comunque un movimento di popolo, l'unico partito che non c'ha l'encefalogramma piatto, quindi sotto questo aspetto va bene. Quel partito lì, teniamo presente, il PD è un partito ingovernabile, perché ha troppe anime diverse, c'è l'anima cattolica, c'è l'anima SPC, c'è un po' di anima di Rifondazione, per cui c'è spazio per tutti, però bisogna governarlo. Loro vivono nell'ossessione di perdere a sinistra, con la grandissima preoccupazione di non riuscire a guadagnare al centro. Per loro un Renzi che si pone come antipolitico spostato verso il centro è una necessità politica importantissima, quindi faranno punti d'oro per mantenerlo e gli daranno tutti i seggi che vuole. Quindi la soluzione è quella, cercare di coinvolgerlo, dici 70-80 parlamentari di amici tuoi che vuoi portare al Parlamento, li mettiamo in lista e via. È così la politica, oh? Ma infatti... Io li ho visti litigare come dei cani su queste cose qui. Litigano come dei leoni su queste cose qui. Perché se no Renzi come può perdere tutto questo abbrivio? Insomma, lui 1.000.000 rotti di voti comunque ce li ha, non è che può dire il 40%. Renzi straborda dall'altra parte, perché secondo gli uomini di partito, diciamo i capi, c'è stata molta infiltrazione di voti non PD per votare Renzi, questa è la storia che dicono loro. Sì, sì. Per cui le primarie sono gonfiate tanto perché molta gente non PD si è iscritta a votare in qualche modo. Quindi Renzi è un polo d'attrazione che consente al PD di superare quella maledetta soglia del 28%, perché non supererà mai se non c'ha un polo d'attrazione al centro. Lì bisogna. Poi diventa una brutta bestia, capito? Al centro oppure Vendola, adesso tutti si animano. Pare che Vendola abbia detto come prima dichiarazione: ci vorrebbe Massimo D'Alema agli esteri, e D'Alema abbia risposto: ci vorrebbe Vendola ministro. Cioè, stanno già chiaramente cercando le alleanze. Ma io vi voglio fare ascoltare uno straordinario Maurizio Crozza venerdì, che imitando Francesco Guccini, prima di cantare la storica Avvelenata, rivisitata ovviamente, sentite Maurizio Crozza Guccini come la vede la questione primaria prima della vittoria di Bersani. L'altro ieri, con esasperato gusto, mi sono guardato il confronto alla televisione tra Bersani e Renzi. Renzi ha detto che da 100 euro al mese a tutti per un anno, il segretario invece ha detto che c'ha un tacchino sul tetto. Noterete la differenza culturale. Bersani è delle mie parti, stirpe contadina, non ti promette niente se non è sicuro di mantenerlo. Come diceva il compagno Mao, se vuoi aiutare un povero, non regalargli un pesce, insegnagli a pescare. Ecco, Bersani mica ti regala un tacchino, ti dice che il tacchino è sul tetto, poi sono tutti cazzi tuoi, costruisci una scala se sei capace. Questo Maurizio Crozza, straordinario, ma l'imitazione di Guccini è uguale, sembra veramente Francesco Guccini, Maurizio Crozza. Non mi serve il falcone perché c'ho il mattarello e prendo, dopo 15 anni diversamente, i 91 euro di pensione. Che devo fare? È possibile in Italia avere dipendenti che tra ferie e permessi arrivano 8 settimane di assenza? È davvero tutto dovuto? Mi faccia la cortesia, inviti un bravo economista che ci insegna come si fa a pagare tutto con 500 euro di pensione. Il Vaticano adesso ci ricatta dicendo che licenzia tutti i suoi insegnanti. Li licenziano tutti, e che ci fanno con tutte le rette che sono esose? Ma si rendono conto di cosa paga ogni bambino che va a scuola in una scuola privata? Io divento atea musulmana, guarda, piuttosto. Ma il signor Giorgio Napolitano viene a dire a noi di fare sacrifici, ma lui non si vergogna oltre a quello che prende, porca miseria, 8.835 euro. Anche lui ci sta prendendo in giro, Milan! Rivoluzione! Ma non fra di noi, tutti a Roma! Tutti, buttate fuori tutti! Buongiorno Milan, lei che conosce Babbo Natale, per piacere, gli chieda di farmi un regalo, voglio un solo regalo, che prenda Berlusconi e che lo mandi in Kenya e che lo tenga lì. Chiederò a Babbo Natale se vuole soddisfare il desiderio di questo ascoltatore. Siamo con Bimbo Alieno e Alberto Forchielli. Forchielli, no, adesso no. Babbo Natale Berlusconi, però si trattenga, che è anche in Germania, che l'altra volta mi ha detto che Berlusconi è peggio. Secondo Hitler. No, ecco. Secondo Hitler. No, ecco, eh? Ecco, si fermi, no? Si fermi, che sta pure in Germania, quella parola lì, magari. Ma... Allora, vabbè, qui c'è da dire che molti messaggi ci arrivano nella nostra segreteria e sono molto sentiti, anzi prego a tutti gli ascoltatori, siate brevi nei vostri messaggi, perché non posso mandare in onda messaggi di 2 minuti, 3 minuti, gente che ci racconta la vostra vita, la propria vita. Però molte persone ci chiedono questo, come si fa con 500, l'ha sentita Forché l'ultima signora, come si fa con 500 euro di pensione? Ci invita un bel economista, ci spiega come si fa a pagare l'IMU, come si fa a pagare. Questa signora tra l'altro raccontava nella segreteria, ha una casa ma non riesce a pagare l'IMU perché ha una casa evidentemente da tanti anni, non riesce a pagare le rate. Allora queste sono le cose concrete, altro che Bersani, Renzi, Berlusconi, le primarie eccetera. Come si fa in questa Italia, Forchielli, ad andare avanti per una classe media, un ceto medio che non ce la fa più andare avanti alla fine del mese? Bisogna lavorare di più. Ecco, quelli che sono ancora lì che devono lavorare di più. Come vuol dire meno pene, meno pause caffè, vuol dire meno assenteismo, vuol dire più intensità sul lavoro, vuol dire non tirarsi dietro sabato e la domenica, perché ormai il mondo che ci circonda lavora così. Questa è la soluzione. Sai che questa è la soluzione più molto semplice, è l'unica. Forchielli, bisogna aumentare la produttività del sistema ed è l'insieme collettivo di tanti sforzi industriali. Ecco. Come vincere la guerra, capito? Cioè, lei ha bisogno di 4 milioni di fanti che vadano all'assalto per 70 volte. Sì. Cioè, non ci sono ricette magiche. No, ma sapete perché a me piace Forchielli? Perché Forchielli dice le cose. Forchielli, lei sa che è molto impopolare questa cosa. Quando l'ha detto il sottosegretario Polillo, bisogna lavorare di più, la gente si è infuriata. Ma sono cose che hanno probabilmente un pizzico forse più di verità. Forchielli, io quindi sono dalla sua parte, quindi siamo in due a dire una cosa impopolare, adesso ci massacreranno, lo sa che. Pazienza. L'alternativa è diventare più poveri, capito? Diventare più poveri. No, ma interessante, su questo bimbo alieno bisogna lavorare di più, come tra l'altro in segreteria ci chiedeva una signora, dice ma com'è possibile che ci sono 8 settimane i dipendenti e i permessi e retribuiti, è tutto dovuto in Italia? Certo, è il punto di vista un po' impopolare rispetto alla signora che magari ci dice ho 500 euro di pensione e non so come pagare tutto, ma è una soluzione? Bisogna lavorare di più perché il mondo lavora così? Sai, il problema in realtà è quello che ha nominato Alberto, cioè la produttività. E, vedi, noi veniamo da una crisi da eccesso di produzione, cioè venivano prodotti troppi beni per i consumatori occidentali e si è ingenerata di conseguenza una crisi di domanda dovuta a eccesso di offerta. Per cui purtroppo in questo genere di crisi lavorare di più rischia di creare un controproblema. Addirittura. Perché purtroppo la realtà è che, la dura realtà a cui stiamo assistendo, è che le cose si stanno risolvendo attraverso un guadagnare di meno lavorando quanto prima o più di prima. Sì, certo, forse comunque... non vale per il discorso di chi è dipendente, ovviamente, di dipendente se lavora di più, però... il concetto che essendo dipendente quello è lo stipendio? Forse Forchielli la vedeva più dal punto di vista imprenditoriale, no? Forchielli, cioè... No, è tutto, cioè se uno è dipendente ha lo stipendio quello lì fisso, non è che può lavorare di più, darsi da fare di più, ma cosa può fare? Beh, voglio dire, con sistemi meritocratici, sia nel pubblico che nel privato, in teoria uno dovrebbe guadagnare di più. Vabbè, ma lei è in Germania, i sistemi meritocratici, ma mi faccia ridere, ma in Germania queste cose funzionano, la meritocrazia in Italia. Ma questa sembra un po' la barzelletta di Renzi all'inizio. Ci lasci così, con questa barzelletta, la meritocrazia in Italia. La ringrazio Alberto Forchielli e Bimbo Alieno, grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo lunedì prossimo se volete. 1, 2, 3, 4 Ma se io avessi previsto tutto questo, mi ha anche dato il resto e ho pagato 2 dobloni pensate per votare alle primarie, ho rinunciato al pisolino e a tre bottiglioni. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. In questo lunedì 3 dicembre 2012, belle aperture, a parte il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, sono tutte dedicate appunto alla vittoria di Bersani. L'edizione del Sole 24 Ore appunto invece è sull'IMU. Il titolo di apertura: bottino IMU 5 miliardi in più, le delibere dei sindaci alzano il conto finale a 23 miliardi rispetto ai 18 previsti, e il 17 si paga, cari italiani, se avete una casa, l'acconto finale, il saldo finale dell'IMU. Poi allora la vittoria di Bersani. Corriere della Sera: Bersani vince la sfida delle primarie. Per Repubblica: le primarie incoronano Bersani. La Stampa: vince Bersani, ora il governo, l'unità, tutti con Bersani. Il Messaggero: primarie, trionfo di Bersani. Il Giornale: le primarie del PD restano comunisti, questo è il titolo. Il Fatto Quotidiano: è l'edizione straordinaria, lunedì vince Bersani, ma ora i PD sono due, questo è il titolo di apertura. Mentre Pubblico mette la foto di Bersani e il titolo di apertura è Fa qualcosa di sinistra. Il Secolo XIX, il plebiscito per Bersani, e anche il Giorno: Bersani vola ma Renzi c'è. Insomma, tutti i titoli, come era presumibile, dedicati a questo. Voglio partire però da due altre notizie. La prima è il caso Sallusti. Allora, avete seguito la vicenda durante il fine settimana. Sallusti prelevato dalla Digos, portato ai domiciliari. Lui poi ha rotto, diciamo, i sigilli, si può dire, è evaso. E quindi, come aveva preannunciato, è uscito da casa, è evaso e dunque è stato arrestato, è stato fermato e riportato poi ai domiciliari. Questa volta invece il processo per direttissima ha detto: mi impegno a rispettare scrupolosamente, volevo fare questo gesto dimostrativo, ma ora mi impegno a rispettare tutto quello che devo rispettare, anche perché sennò rischia un aggravio di pena. La novità è che il capo dello Stato, come scrivono i vari giornali, sta valutando se concedere la grazia a Sallusti. Napolitano valuta il caso Sallusti, così titola per esempio a pagina 25 il Corriere della Sera. Appello per la grazia e il presidente esamina tutte le ipotesi. Il presidente della Repubblica, scrivono Alessandra Coppola e Dino Martirano, sta seguendo da vicino la vicenda giudiziaria del direttore del Giornale, tanto che anche di domenica il Quirinale si è lavorato per tentare di trovare una soluzione. Ne hanno parlato ieri pomeriggio Giorgio Napolitano e il ministro della giustizia Paola Severino. Hanno affrontato insieme tutti gli aspetti di un caso particolarmente complesso che richiede la responsabilità di tutti, come ha definito con un tweet il portavoce del Quirinale su Twitter, appunto, Pasquale Cascella. E dunque c'è la possibilità della grazia. Tra l'altro c'è un interessante profilo di Alessandra Coppola, sempre sul Corriere della Sera, di Daniela Santanchè. Il grido di dolore di Daniela Santanchè, che dice: condannata tutta una famiglia, passeremo il Natale da soli. Perché dice: c'è una vittima collaterale di questa storia, una donna imprenditrice, politica e anche mamma, che possiede una villa bianca a due passi dal corso dello shopping di lusso a Milano, coi divani di velluto e i quadri d'autore che hanno fatto infuriare nella descrizione sulla Stampa poi la stessa Daniela Santanchè. E lei dice: sarà vietato l'ingresso, visto che è vietato l'ingresso a Sallusti, sono vietate visite di estranei, non posso far entrare gente della mia famiglia, non posso far entrare mia mamma, mio figlio di 16 anni non può far entrare i suoi amici, non posso far entrare, posso far entrare la russa, perché è l'avvocato, in questo caso avvocato di Sallusti, ma non posso far entrare la moglie di la russa, che è la quarta nelle partite di Burraco. E come faranno? Non giocheranno a Burraco questo Natale, quindi Daniela Santanchè dice: rimarremo da soli, è un problema, è un dramma. ha detto non vuole appartenere, Alessandro, a nessuna casta di privilegiati. Io sono dilaniata tra il lato umano di sentimento e la posizione di rispetto nei confronti di Sallusti. Se ha detto voglio andare in carcere, io devo essere al suo fianco rispettando le sue modalità. L'amore è anche questo, quanto alla grazia non tocca a me ma ad altri. Cosa ha fatto ieri? Ha visto un po' di TV, ha visto le partite, racconta Ignazio La Russa, che è passato a trovarlo di ritorno da San Siro. E questo è un vero problema, per esempio il quarto giocatore di Burraco che manca ora, la moglie dell'avvocato La Russa, che non può andare a visitare Sallusti perché è un'estranea, e dunque il giudice ha detto di no. Comunque ci sarà la grazia, questo lo vedremo nei giorni successivi, nei prossimi giorni. Intanto voglio segnalarvi anche questo interessante articolo di Thomas McKinson a pagina 8 del Fatto Quotidiano. L'ambasciatore guadagna più di Obama. È un'inchiesta sul dorato mondo delle feluche, degli ambasciatori, delle rappresentanze italiane all'estero. Parte l'articolo nel raccontare un'ispezione del Ministero di New York a New York. Il Ministero degli Affari Esteri sta facendo un'ispezione a New York su alcune consulenze e contratti fatti all'interno dell'Istituto Italiano di Cultura a New York, per alcuni corsi, per alcune contratti che vengono in qualche modo rimproverati anche con una sorta di palese conflitto di interessi al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura. Ma poi è un viaggio che si dipana tra veramente i costi e gli stipendi incredibili dei nostri ambasciatori all'estero. Sapete quanto guadagnano i nostri ambasciatori? Un piccolo esercito che costa in tutto 184 milioni l'anno. Un ambasciatore italiano all'estero guadagna 380.000 euro lordi l'anno tra indennità di servizio, che è esentasse, e stipendio metropolitano tassato invece, a cui vanno aggiunti il 20% di maggiorazione per il coniuge, il 5% per i figli, indennità di rappresentanza e sistemazione, contributo spese per residenza e personale domestico, più un premio, visto che non bastasse tutto questo, c'è un premio di risultato variabile da 50 a 80 mila euro. Sarebbe interessante capire come si valuta il premio di risultato di un ambasciatore. Che deve fare un ambasciatore per ottenere il premio di risultato? Comunque, chi sta a Parigi, scrive il Fatto Quotidiano, prende per esempio 320.000 euro netti l'anno l'ambasciatore, 125.000 euro di oneri di rappresentanza, quindi fate i calcoli, siamo già a 445.000 euro, più 64.000 euro, quindi si arriva a 500.000 per la moglie e 16.000 per il figlio. E tra l'altro a Parigi abbiamo altri tre ambasciatori, non solo quello dello Stato di Francia, ma anche all'UNESCO, all'OSCE e al Consiglio d'Europa. Dunque quattro ambasciatori per 500.000 euro e rotti netti l'anno. In America, ecco, guadagna l'ambasciatore italiano a Washington più del presidente degli Stati Uniti d'America. Sul Fatto Quotidiano a pagina 8. Come al solito, mani sul volante, perché sennò vi arrabbiate. Qualcuno mi scrive che abita anche dove ci sono tante curve, tanti tornanti, e quindi fa fatica. Mani sul volante, non vi arrabbiate. Quando siete a un semaforo potete dare i pugni che vi spettano e che sono giustificati. E ci concentriamo ora appunto sulla vittoria di Pierluigi Bersani, che con il 60%, 60,8%, i dati non sono ancora definitivi, ma ormai insomma è certo il distacco, il divario, 60,8%, ha vinto il ballottaggio per essere candidato premier per il centro-sinistra rispetto a Matteo Renzi. Bersani vince la sfida delle primarie, così titola per esempio il Corriere della Sera. Tutte le analisi sono intanto sul voto abbastanza chiaro, abbastanza netto, con cui Bersani ha chiuso i giochi. Sono diminuiti i partecipanti rispetto al primo turno. Le grandi città, a parte Firenze, sono andate al segretario del PD. Per esempio a Milano ha vinto con il 62%, a Roma con il 70% addirittura, a Napoli col 76%, a Bologna col 70%, a Bari il 75%, a Palermo il 66%, solo a Firenze, dove è sindaco Renzi, ha vinto Renzi col 55% su Bersani. Interessante l'articolo di Monica Guerzoni a pagina 3 del Corriere. Subito comincia il tour ora nelle cancellerie europee da parte di Bersani. Per la prima volta da quando si è messo in viaggio, scrive Guerzoni, per Palazzo Chigi il moderatamente bersaniano segretario del PD non declina il noi ma l'io. Ieri sul palco del Teatro Capranica, senza altri leader attorno, Pierluigi Bersani strappa la prima ovazione calcando su un pronome che lascia fuori Renzi. Un grande partito popolare come il mio deve sempre avere fiducia nella sua gente. E qui scatta l'ovazione, ringrazia un po' tutti, ringrazia anche Tabacci, la Puppato, ringrazia soprattutto Nichi Vendola che si è speso molto per lui e per portare i voti dei vendoliani in questo ballottaggio. E ora che cosa inizia? Inizia appunto un tour, e qui il senso dell'articolo di Monica Guerzoni, un tour nelle cancellerie europee. Oggi per la verità partirà per la Libia, Bersani, dove domani incontrerà il presidente della Libia, ma poi è previsto già un viaggio fitto di missioni con Parigi, Berlino, Londra e poi l'America Latina, importante serbatoio di voti degli italiani d'oltremare. È tornato per esempio da ieri il responsabile esteri del PD dal Brasile, Lapo Pistelli, è andato a stringere accordi in vista del viaggio. Insomma, il segretario dei Democratici intende dimostrare che i rapporti internazionali non li ha solo Mario Monti, perché qui un po' sarà la sfida tra Bersani e pare il suo competitor principale potrebbe essere Monti, non tanto il Monti che si candida, ma il Monti voluto da altri, da altre coalizioni. E poi ovviamente c'è anche il centrodestra in attesa di capire cosa farà Silvio Berlusconi, ma tra poco vedremo qualcosa di più. Dall'altra parte c'è un Matteo Renzi che non vuole scuse, dice abbiamo perso. Tra l'altro ha fatto anche questa battuta mutuandola da Twitter, no? Finalmente ho fatto qualcosa di sinistra, ho perso. Questa è la battuta che hanno regalato a Twitter a Matteo Renzi e lui l'ha fatta propria, per dire forse la migliore battuta. Anch'io finalmente ho fatto qualcosa di sinistra. Prima sconfitta del sindaco, ho sbagliato io, dice così. Sono sempre sul Corriere della Sera. Francesco Alberti a pagina 6 racconta la giornata di Matteo Renzi, che finisce appunto con il discorso, con la vittoria netta concessa a Pierluigi Bersani. C'è anche la battuta della moglie Agnese, che è sempre rimasta in seconda fila, mai un'apparizione pubblica, mai un'intervista, e che ieri votando, uscendo dal seggio, pare abbia commentato sono sollevata, cioè sapendo che il marito avrebbe ormai perso, sono sollevata. Per il momento, per ora, non ero pronta a ricoprire il ruolo di First Lady. E anche quel per ora, perché forse Matteo Renzi dice in nostro favore gioca sicuramente il tempo e il futuro. Non ci sono state neanche grandi polemiche dopo il battibecchi sulle regole, andare a votare. L'unico che fa un po' di polemica tra il serio e il faceto, pare molto serio in realtà, però insomma, visto anche il personaggio, lo si prende anche con un lato ironico, è Carlo Verdone, che intervistato dal Secolo XIX pare molto arrabbiato, dice il PD mi ha defraudato, non so se ti voterò ancora. Perché? Perché Carlo Verdone non è stato ammesso a votare. Come mi sento, dice a Michele Anselmi in questa intervista, sono dispiaciuto, anzi arrabbiato, defraudato di un diritto come cittadino, non saprei dire adesso se voterò ancora PD, d'ora in poi voglio vedere come agiranno, tanto a questo punto vince Bersani, no? E ancora, non mi pare che quando erano al governo abbiano fatto tante regole sul conflitto di interessi, ma intanto a causa di queste regolette sulle primarie io non posso votare. Insomma, ha ricevuto lui la mail della sezione di Via dei Giubbonari alle 23:15 di sabato e mi scrivono che non hanno ritenuto di accogliere la mia domanda in base alla delibera 26. Avevo portato le giustificazioni necessarie, ero pronta a mostrare anche l'ematoma sulla caviglia. Pare che non abbia votato dunque perché era infortunato. Ma le regole sono regole, chiede Michele Anselmi. Ma che regole sono, risponde Verdone. Hanno ammesso solo 7.094 persone su oltre 100.000. Pensano davvero che fossero tutti elettori del centrodestra pronti a sostenere Renzi? Ma via, questo modo di fare non mi piace. Come se dicessero, è una cosa nostra. Beh, ma dovevano fare un'eccezione per lei. Ma non volevo mica la raccomandazione perché sono Verdone. Non dico perché avrei votato, ma forse un po' si capisce. Di sicuro mi sento come uno di quei tanti che ho visto su YouTube, rispediti indietro dopo aver fatto la fila e parecchio incazzati. Insomma, Verdone arrabbiato perché non è riuscito a votare. La domanda ora è: che succede oggi? Cioè, da oggi, Matteo Renzi che fa con tutto questo pieno di voti? Cerca un ticket in qualche modo? Bersani ha detto bisogna includere, è una risorsa. Anche D'Alema ha detto, D'Alema, pensate, colui che è stato spesso attaccato da Renzi in questa campagna elettorale, ha detto Renzi è una risorsa. Perfino Rosi Bindi, intervistata da Repubblica, dice Matteo Renzi è una risorsa. Certo, la sua linea politica è diversa, ma è una risorsa. Che succede? Matteo Renzi rimane all'interno del partito, aiuta Bersani, però cercherà di ottenere anche qualche parlamentare vicino a lui, visto che la grande maggioranza della dirigenza del Partito Democratico è bersaniana. Intanto sta alla finestra Nichi Vendola, che fa una serie di interviste ovunque, sul Corriere, su Repubblica, sull'Unità. Per esempio al Corriere dice: avanti keynesianamente, il voto chiede una svolta a sinistra. Ho voluto evitare che tutto questo diventasse un congresso del PD, sono molto contento, ma ora ci vuole una svolta a sinistra. Questo dice Nichi Vendola. Dall'altra parte, ovviamente, che succede? Silvio Berlusconi a questo punto pare si voglia candidare. Almeno così racconta Ugo Magri sulla Stampa. È l'ultima chance per il Cavaliere. Aspettava giusto questo. Se avesse vinto Renzi, secondo i pronostici, Berlusconi avrebbe fatto un passo indietro. A questo punto dice: a questo punto avanza il nuovo, la gioventù, lascio ad Alfano. Ma avendo vinto Bersani, secondo Ugo Magri sulla Stampa, pagina 11, è l'ultima chance per il Cavaliere. Adesso mai più. Perché la vittoria di Bersani, scrive Magri, alle primarie è l'unica motivazione dignitosa a cui Berlusconi può aggrapparsi se davvero desidera, come sempre, tornare in pista. E chi sta attorno lo vede quasi smanioso di riproporsi all'Italia quale unico vero ostacolo al ritorno dei comunisti. E infatti il giornale, non è un caso, mette questa parola in prima pagina. Restano comunisti. Sembra quasi come dire: vedete, c'è bisogno di Berlusconi. Spetta lui decidere se candidarsi, dicono all'interno del centrodestra, ma certo Berlusconi pare davvero pensarci. Anche nel retroscena del Corriere della Sera, Maria Antonietta Calabrò, l'effetto Bersani allontana il passo indietro di Berlusconi. Anche Repubblica fa un retroscena su questo, dal titolo: il risultato sprona Berlusconi. Se non c'è Renzi, io posso correre. La sinistra non cambia mai. Così, secondo Carmelo Lo Papa su Repubblica, nel retroscena che trovate a pagina 10, avrebbe commentato Silvio Berlusconi la vittoria di Pierluigi Bersani nelle primarie. E anche per Repubblica, dopo il faccia a faccia di 5 ore sabato con Alfano, a questo punto Berlusconi sembra proprio intenzionato a ritornare in campo. Molteplici fattori hanno ridotto la nostra forza sull'elettorato. La risposta però non è quella di dividere ciò che è stato faticosamente unito. Un Berlusconi pronto, dopo aver detto che le primarie del centro-sinistra sono il trionfo dell'apparato sul bravo Matteo, pronto a dire: a questo punto forse è il caso dell'ultima mia possibilità di discesa in campo. Mentre mercoledì, racconta la Stampa, succederà una conferenza stampa nella quale ci saranno affiancate dei personaggi politici che potrebbero sembrare invece lontani dal punto di vista dell'ideologia politica. E sono questi, lo racconta sempre Ugo Magri, a pagina 11, l'articolo è interessante: Tremonti in campo con Lega e Lombardo. Ebbene sì, Raffaele Lombardo. E dunque, l'annuncio elettorale di un nuovo polo in una conferenza stampa a Troyes, presenti Tremonti, Maroni, segretario della Lega, e Raffaele Lombardo. Beh, davvero sembra proprio un qualcosa di strano, almeno lista, lavoro e libertà. Questo pare che sia la scelta del partito, comunque del partito, per carità, adesso non si può dire, perché dire la parola partito di questi tempi non è molto popolare. Lista, lavoro e libertà. Questo è il polo che vuole mettere in piedi Tremonti, e c'è questa conferenza stampa con anche Maroni e l'ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo. Staremo a vedere. Per venire a cose molto più prosaiche, terra terra, non lontane come possono essere i giochi della politica, ma molto vicine e concrete come possono essere quelle che interessano, le cose che interessano il vostro portafogli, cari cittadini italiani, il Sole 24 Ore oggi fa un po' di calcoli sull'IMU. Tra due settimane esatte c'è da pagare entro il 17 il saldo. Ebbene, sappiate che gli italiani dovranno pagare 5 miliardi di euro in più rispetto a quanto avrebbero dovuto versare se si fossero applicate le aliquote nazionali utilizzate per l'acconto. Questo perché? Perché i comuni ci hanno messo il carico loro. E dunque, IMU dai comuni un extra di 5 miliardi. Trovate tutti i dettagli a pagina 3. Del Sole 24 Ore con Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente. Ve lo segnalo perché magari mettete da parte la rabbia, mettete da parte un attimo di incazzatura, e però poi ve lo leggete con calma, perché se dovete pagare l'IMU è bene che lo sappiate per tempo. Il conto è un assegno extra da 5 miliardi, quello che gli italiani dovranno pagare per il saldo dell'IMU in base alle decisioni dei comuni, 5 miliardi in più rispetto a quanto avrebbero dovuto versare applicando appunto le aliquote utilizzate per l'acconto. Così la successione dei versamenti: 9 miliardi a giugno, 14 a dicembre, per un totale di 23 miliardi nel 2012. Questo sarà il bottino dell'IMU. Questo considerando solo i fabbricati, senza conteggiare i terreni agricoli e le aree edificabili. Comunque tutti i dettagli ci sono sul Sole 24 Ore sull'imposta municipale. Ci sono ancora schermaglie, non è assolutamente finita la vicenda dell'Ilva. La vicenda dell'Ilva non è finita perché intanto, fa sapere Repubblica con Carlo Bonini e Giuliano Foschini, c'è una pioggia di cause civili contro la famiglia Riva e contro l'Ilva. Pensate che un quartiere di Taranto chiede 9 milioni di euro di danni. In un contrappasso che si fa metafora, scrive Repubblica, il cimitero chiede i danni all'Ilva. Ebbene sì, il cimitero. La struttura di San Brunore, a poca distanza dallo stabilimento, da anni continua a tinteggiare le cappelle di rosa per evitare che si sporchino del rosso dei minerali che l'azienda accumula in montagne alte decine di metri, perché almeno i morti, dicono, vanno tenuti puliti. E così anche il cimitero si è associato a 148 tra cittadini ed enti che hanno promosso causa civile all'Ilva S.p.A. per i danni subiti dall'inquinamento e il deprezzamento subito da abitazioni e proprietà. È un numero peraltro destinato a gonfiarsi. La stima è fatta dall'associazione ambientalista Peace Link, che quantifica il danno complessivo della città e del suo ecosistema in 6 miliardi di euro, che si andrebbe a sommare ai 700 milioni già chiesti dal comune. In tutto questo c'è il decreto dell'Ilva approvato dal governo e sul quale però la procura è pronta al ricorso alla Corte Costituzionale. Sembra ormai certa la decisione della procura. A pagina 7 del Secolo XIX, tra l'altro, c'è un profilo della colei che è definita la Sfinge, il GIP di Taranto, Patrizia Todisco, una persona che in realtà non parla quasi mai, anzi proprio mai, non ha mai rilasciato una dichiarazione alla stampa, una che viaggia e gira per il Tribunale di Taranto con la Costituzione sotto braccio, giusto per far capire a tutti, come racconta Valentina Marzo in questo bel ritratto della GIP di Taranto, Patrizia Todisco, soprannominata appunto la Sfinge, perché è lontana dalla stampa, dai giornalisti, sempre dietro le quinte a distanza dei riflettori. La Sfinge che fa in tribunale con la Costituzione, seria e rigorosa, non ama i riflettori, è lei che probabilmente promuoverà insieme alla Procura di Taranto il ricorso alla Corte Costituzionale per contestare la costituzionalità appunto di questo provvedimento, di questo decreto del governo. Chiudo alle 11.30, tutti sintonizzati, perché c'è la conferenza stampa in Vaticano nella quale verrà svelato l'account ufficiale di Papa Benedetto XVI e da oggi i tweet ufficiali del Papa, uno al giorno. Imperdibile. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:17 minuti. Parleremo ovviamente alle 8:30, dalle 8:30 delle primarie, della vittoria di Pierluigi Bersani su Matteo Renzi come candidato premier del centro-sinistra. Da qui voglio partire anche per fare una chiacchierata con il mio ospite, che è il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che invece è in procinto di lanciare un movimento diverso. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei, ascoltatore. Senta, Bersani, Renzi, ha vinto Bersani, tutto previsto, e come commenta lei? La vede dal di fuori o è interessato a questo centro-sinistra? Ma è ovvio che sono interessato, anche se non ho partecipato alle primarie, sono interessato da sindaco e da, insomma, cittadino di questo paese che si augura che possa venire un'alternativa rispetto al governo Monti. Per adesso c'è la notizia positiva che hanno partecipato moltissimi cittadini alle primarie e questa è una bella notizia. Di nuovo non c'è ancora niente, perché dobbiamo vedere cosa esce, che il PD finora ha votato leggi che io non condivido per nulla in questo Parlamento e sicuramente Bersani non è nuovo, quindi vediamo se c'è una proposta che vada verso il cambiamento nel paese, che non significa semplicemente mettere al posto di Berlusconi o di Monti qualcuno che apparentemente appartiene un po' a un altro schieramento, ma ci vuole veramente un cambio radicale. Però lei dice non è nulla di nuovo, ma lei è più, si felicita più per la vittoria di Bersani o di Renzi? Con Bersani magari aveva qualche più problema, anche avuto anche qualche scontro, mi pare. Ma non lo so, Renzi è sindaco, è giovane, è stato votato, perché poi secondo me è stato votato molto da chi voleva un cambiamento, questa è un po' l'analisi. Di Renzi non condividevo lo spostamento a destra dello schieramento di centrosinistra, il linguaggio mi sembrava molto più vicino, diciamo, alle esigenze dei poteri che ancora governano, quelli forti, però rappresentava indubbiamente una novità. Bersani ha usato un linguaggio più di superamento di Monti, però poi bisogna vedere, perché nell'ultimo confronto televisivo diceva che il futuro è l'alleanza con Casini, secondo me il futuro è altro, è dare voce a chi è indignato da ormai troppi anni nel nostro paese. Quindi vediamo quale sarà la proposta di Bersani. Ma che poi i poteri forti chi sono? Io non ho mai capito, cioè quando Renzi incarna i poteri forti che vuol dire? Ma i poteri forti sono quando tu tra Marchionne e gli operai ti schieri con Marchionne. Ecco. E poi invece le sentenze della magistratura danno ragione agli operai. Non anche se poi aveva cambiato idea ultimamente, dicendo che Marchionne aveva tradito le aspettative di Fabbrica Italia. Insomma, però poi in campagna elettorale si cambia molto spesso idea. Gli italiani credo che hanno bisogno anche di coerenza e di persone credibili che dimostrano poi di praticare con i fatti le idee che professano in campagna elettorale. Però Renzi è un interlocutore, attenzione, l'ho detto, perché una persona che ha 36 anni, sindaco che ha preso i voti, arriva al 40% circa dei consensi, insomma, noi stiamo parlando di uno che ha fatto solo una testimonianza. Ma poi, poi parliamo di questo movimento arancione, ma secondo lei Renzi adesso dovrebbe stare nel partito o uscire? Ma guardi, ho tanti problemi, questo lo chiede a Renzi. No, vabbè, come consiglio. Non mi permetti di dare consigli al PD che ha tanti problemi al suo interno, non ci mancano solo i miei consigli. Allora, il movimento arancione, forse il 12 dicembre si capirà qualcosa di più, ma insomma, per ora è un insieme di liste, di iniziative, della società civile. C'è stata questa prima riunione a Roma, tanti ex magistrati, lei, Livio Pepino, Antonio Ingroia per la verità lo è ancora magistrato, non è un'anomalia già questa? L'assemblea dell'altro giorno, dove c'erano diverse realtà, appunto, come ha detto lei giustamente, perché il Movimento Arancione non c'è un copyright, sono le tante realtà che si sono mosse in questi anni, dai sindaci ai referendum, alle lotte per il lavoro, per i precari, gli studenti, la cultura, gli operai. C'erano alcuni magistrati, Livio Pepino non lo è più ormai da diverso tempo, ma c'erano anche tantissimi cittadini che lottano nei territori, c'erano operai, c'erano insegnanti, c'erano studenti, c'era veramente di tutto. E questo, quando io prima dicevo, è un segmento di un qualcosa di più grande che si sta per organizzare nel paese, c'è un'area che deve essere rappresentata, che secondo me non la rappresenta né Bersani né Grillo e nemmeno un centrodestra che comunque è in fase di deflagrazione, c'è un'area vasta soprattutto di astensionismo, su quello si deve cercare di portare non solo la protesta, ma una proposta politica per l'alternativa. Ecco, ma a proposito di proposta politica, vediamo due o tre cose. Per esempio, di che area siete? Agenda Monti, sì o no? Mi pare di capire no. Agenda Monti va completamente superata, soprattutto nelle politiche economiche, che secondo me sono quelle che hanno creato il maggior disagio sociale e quindi la difesa della Costituzione in primo luogo. Questo è l'aspetto principale, il superamento di Monti. Superamento di Monti. La riforma Fornero sul lavoro la manterreste? Sostanzialmente da cancellare. Insomma, praticamente tutto i tecnici un disastro hanno fatto. Ma non sono tecnici, secondo me sono politici, perché questo è stato uno dei governi più politici degli ultimi tempi. Fiscal compact, pareggio di bilancio, Fornero, distruzione dei sindaci e delle autonomie locali. A me non sembra proprio un governo della Costituzione per la Costituzione. Io riconosco a Monti, non era difficile per la verità dopo Berlusconi, di averci riconsegnato un'autorevolezza all'estero come paese. Questo c'è, lui è una persona, è un tecnico competente, ma è politico questo governo. Io non ho mai pensato che un governo di tecnici, tra l'altro una sospensione della democrazia, perché ho visto insomma votare in Parlamento cose che passavano dalla ragioneria dai tecnici della ragioneria del generale dello Stato. Cioè il governo Monti è una sospensione della democrazia, non tanto per come è formato, ma per come si è votato in questi mesi, non tanto per come è nato, perché quella una spiegazione ce la siamo date, anche se è un'anomalia pure quella. Ma per come ha proceduto in questi mesi, secondo me è una sospensione della democrazia. Senta, per abbattere il debito pubblico, quale sarebbe la prima cosa da fare, secondo lei? Ma innanzitutto non come sta facendo l'Europa con la Grecia, non come voleva fare il Fondo Monetario Internazionale con l'Argentina, cioè non distruggendo il welfare. Quindi il debito va rivisto, ci vuole rigore da un lato, che significa tagli agli sprechi, ma non possiamo pensare di, attraverso il pareggio di bilancio, rientrare con quelle cifre dal debito, annullando sostanzialmente dei servizi pubblici o riducendoli drasticamente come la sanità, la scuola e le politiche sociali. Quindi ci vuole una ridistribuzione innanzitutto delle risorse a livello europeo, e questo è un passaggio molto importante, un taglio del costo del lavoro, perché in quel modo che si rimette in moto le imprese, e bisogna facilitare le famiglie a utilizzare il risparmio. Invece in questo modo si stanno facendo intimorire le persone che hanno paura di perdere i propri risparmi. Nessuno investe più, le banche finiscono che paradossalmente danno credito solo alle aziende che magari stanno in questo momento, hanno liquidità, ma sì, che rischiano di non avere prospettive future, a differenza di piccoli o giovani imprenditori che vogliono invece investire, che non riescono ad avere credito. Quindi queste sono politiche che stanno bloccando sostanzialmente le aziende. Dicono il contrario, che non c'è proprio liquidità e non c'è. No, nel senso, è paradossalmente, infatti, non viene dato soprattutto a chi vuole investire. Quel poco di credito che viene dato alle imprese che sono magari già non ai nuovi imprenditori. Quello invece è il tema. Se vogliamo riprendere, penso al sud, ma non solo al sud, noi dobbiamo dare incentivi soprattutto dal punto di vista fiscale nei confronti delle piccoli e giovani imprenditori che cercano insomma di, soprattutto sì, con le nuove imprese, con le nuove tecnologie, di investire. Non possono avere prestiti in questo momento perché le banche hanno chiuso i rubinetti. Senta sindaco, c'era anche Antonio Ingroia alla manifestazione, che però ha detto: sono con voi, non si sa bene in che forma. Lei onestamente spererebbe o sognerebbe un Antonio Ingroia come personaggio candidato, espressione del movimento arancione? Ma il mio sogno è che in questi mesi tantissime cittadine e cittadini italiani che hanno una storia, una credibilità e soprattutto la schiena dritta e una grande pulizia interiore e morale si candidano per liberare il paese. Questo è il mio sogno. Che liberare insieme ad altri va bene, ma l'errore secondo me è caricare una persona di una funzione salvifica. Cioè non credo che noi dobbiamo aspettare Ingroia per salvare il paese, questo sarebbe un errore. Però voglio dire, lei lo vedrebbe bene candidato, che vorrebbe dire anche lasciare il suo lavoro con tutte le polemiche annesse che ci sono state negli ultimi mesi, tornare dal Guatemala, oppure anche un appoggio esterno andrebbe bene? Io lo vedrei bene, ma vedo male il partito dei magistrati, cioè vedo male se l'immagine fosse quella che ha descritto lei prima, perché non è questo il futuro. I magistrati sono un piccolo segmento del paese. Oggi c'è bisogno di dare voce a tutte le articolazioni, soprattutto a quelle che in questi mesi hanno dimostrato coraggio, penso agli studenti, agli operai, ai lavoratori, alle battaglie di genere, sui diritti civili, a quelli soprattutto bisogna dare voce, secondo me. Sì, diciamo, non in partito dei magistrati, però ci sarebbe spazio anche nel caso. Viva il Dio, dopo Berlusconi, dopo i Fiorito, dopo tutte quelle persone là, se venisse una persona per bene, che ha la schiena dritta, insomma ha pagato un prezzo anche per andare a scoprire la verità sulla trattativa tra pezzi di Stato e la mafia, io lo trovo un fatto positivo, però questa è una scelta sua, sono scelte molto difficili e complesse. Secondo lei che farà? Perché vi sentite spesso, immagino, che è più orientato ad accettare o non correre i rischi che comporta anche tutte le polemiche che ci sarebbero annesse? Ma lui ha una grande passione civile e secondo me una grande voglia di fare qualcosa di importante per il nostro paese sulla questione morale quella seria. Sa perfettamente che un'eventuale sua candidatura ovviamente è una scelta difficile e che scatena oggettivamente delle polemiche. A questo proposito, non so se ha visto che sul giornale stanno raccogliendo firme per querelare Ingroia, perché in un'intervista ha detto che la nascita di Forza Italia è collegata direttamente agli interessi della mafia. Il giornale, anche oggi, Alessandro Sallusti, tra l'altro le chiedo un commento anche sulla sua vicenda, dice: raccogliamo firme, cari lettori, perché vogliamo querelare Ingroia su questo. Ma io non so esattamente i termini precisi dell'intervista di Antonio, però se ha detto delle frasi lui è attento e quello che dice in genere è in grado di documentarlo. Io adesso non so con precisione cosa ha detto, e poi comunque trovo sbagliato questo fatto che un giornale faccia un'esortazione alla raccolta di firme per querelare un magistrato dalla schiena dritta. Anche se è il giornale il cui direttore ha delle vicissitudini giudiziarie sulle quali le chiedo un commento. Non so sì, se il la commento lo dico subito. Io trovo molto brutto che un giornalista vada in carcere per il reato di diffamazione, anche se Sallusti ha diffamato spesso, ha detto delle cose assolutamente inaccettabili, deve pagare, perché ovviamente chi sbaglia paga, ma mandare un giornalista in carcere per un reato d'opinione non è da paese civile. Un'ultima cosa su Di Pietro. Lei e Antonio Di Pietro come siete a rapporti? Cioè, perché Di Pietro è un po' scomparso, si può dire, ha avuto qualche problemuccio e... Ma i rapporti diciamo, personali sono stati sempre buoni, e quelli politici sono stati dialettici, nel senso... Vuol dire pessimi dialettici? No, non è come quando in diplomazia dice Franco, se è stato un colloquio franco tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, sennò quasi lanciati missili nucleari. Dialettico nel senso che abbiamo avuto opinioni differenti su diversi aspetti, però sempre in un rispetto politico reciproco. Io penso che lui stia riflettendo del fatto che c'è bisogno di una svolta per salvare quello che di buono Italia dei Valori ha fatto in questi anni, perché poi l'opposizione a Berlusconi in Parlamento, ricordiamo, l'ha fatta solo Italia dei Valori. Quindi lui deve salvare le cose buone che ha fatto Italia dei Valori, la parte buona che è maggioritaria, e quindi mettere in discussione anche molte cose che invece nel recente passato sono state fatte. Però potrebbe essere anche continuare un'avventura, magari lasciando l'Italia dei Valori e salendo sul Movimento Arancione, sul carro del Movimento Arancione, trovando una forma così. Ma noi dobbiamo provare a costruire un luogo per l'alternativa in cui stare dentro in tanti, con una rinuncia un poco a delle appartenenze che insomma in questo momento dividono, quindi ci vuole più unità, stare insieme con un segnale di forte cambiamento, ma non penso solo a Di Pietro, penso anche a tantissime altre espressioni del paese, ma anche all'interno di altri partiti, perché poi non dimentichiamoci che anche altri partiti, altri movimenti si sono schierati in modo netto contro Berlusconi e contro Monti, a differenza appunto del PD, perché il PD finora ha appoggiato le politiche montiane, quindi vediamo adesso Bersani che dirà. Intanto la ringrazio, buona giornata. Grazie al sindaco lei, di Napoli Luigi De Magistris. Abbiamo parlato ovviamente di questo Movimento Arancione, di questa politica che avanza e delle primarie parliamo tra poco. Allora, Renzi, Bersani, siete contenti della vittoria di Bersani? 800 24 00 24, se avete votato, se siete dell'elettorato di centrosinistra, che pensate che ora debba fare Matteo Renzi sconfitto? Eccoci qua alle 8:36 minuti. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Poco fa il sindaco De Magistris di Napoli ai nostri microfoni ha detto: Renzi, Bersani, sì, Renzi era più nuovo, ma insomma tra tutti e due non vedo alcuna novità in questo centrosinistra. Comunque ha vinto Bersani 60% e rotti, su Renzi che ha fatto secondo me la battuta, la presa da Twitter in realtà, ma sentite ieri quando si è presentato da Enrico Mentana nello speciale sulla 7 cosa ha detto Matteo Renzi. Comunque la battuta più carina l'ho letta su Twitter, sai cosa mi hanno scritto? Mi è arrivato un commento appena ho fatto il mio messaggio e mi hanno detto, dice, finalmente Renzi ha fatto una cosa di sinistra, ha perso. Ecco, queste sono la battuta più cattiva, me l'hanno fatta su Twitter, ho fatto anch'io una cosa di sinistra. Ho perso, ho fatto anch'io una cosa di sinistra. Voglio salutare Ivan Scalfarotto, che è vicepresidente del Partito Democratico. Buongiorno Scalfarotto. Buongiorno, buongiorno a voi. Voglio salutare anche, la ringrazio, Alessandra Moretti, che è la portavoce del Comitato per le Primarie per Pierluigi Bersani, che poco fa, Moretti, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, poco buongiorno fa a voi. L'abbiamo intercettata twittando, è una grande giornata oggi, no? Si sarà svegliata contenta. Allora, Scalfarotto, però la battuta di Renzi è una battuta o è una semibattuta o c'è un qualcosa di vero un po' nel dire ho fatto una cosa di sinistra, ho perso? Ma speriamo che sia un esorcismo, diciamo così, soprattutto, e che non succeda. Adesso l'obiettivo di tutti naturalmente è vincere le prossime elezioni nel migliore dei modi. Io credo che sia bello che Matteo abbia, come ha detto sempre, riconosciuto la sconfitta in modo, come dire, quasi anglosassone, no? Come succede spesso in altri paesi. Io pensavo che non accade spesso in Italia che qualcuno dica ho perso. E come abbiamo detto dall'inizio, saremo a disposizione naturalmente del segretario del partito perché si vincano le elezioni. Resta il fatto che questa volta finalmente si proponevano due linee politiche, secondo me molto chiaramente diverse tra di loro. Gli italiani ne hanno scelta una piuttosto che un'altra, e quindi bisogna, come dire, essere a disposizione, ma riconoscere appunto la scelta dei nostri concittadini. Ecco, il che vuol dire, perché adesso ovviamente tutti cercheranno di capire cosa succederà adesso, e quello che cercheremo di capire anche da voi, e cioè che cosa deve fare Matteo Renzi con questo comunque pieno di voti che in un certo senso ha ottenuto. Vorrei chiederlo appunto ad Alessandra Moretti intanto. Il segretario Bersani ha già detto, per carità, includere tutti, e bisogna includere tutti, però che succede adesso? Matteo Renzi può essere accantonato con le sue idee, che sono sicuramente diverse rispetto alla linea di Bersani, oppure come fare a includerlo? Ma Matteo Renzi intanto non è mai stato accantonato, nel senso che Matteo Renzi è un dirigente del Partito Democratico, e mi auguro che da domani, con grande senso di responsabilità di tutti, lavori insieme al partito, insieme al segretario, insieme a Ivan e a tutti quelli che vogliono bene al partito, lavori per rafforzare il centro-sinistra e per portarlo davvero, insomma, alla guida del paese, perché la nostra sfida più importante che dobbiamo giocarci è quella delle politiche. E dobbiamo avere una, come dire, uno spirito di servizio. Io dico questo, io ho imparato in questa e da questa avventura che la politica è spirito di servizio, è dedizione, è sacrificio, e anche, voglio dire, a costo di rinunciare a un pezzetto anche delle proprie idee, insomma. Ho capito, questo sì, però Renzi cosa dovrebbe fare? Cioè, la politica è anche fatta poi, adesso che ci saranno le elezioni di parlamentari da eleggere, cioè secondo lei un discorso da parte di Renzi è dire vabbè, però io il 40% l'ho ottenuto, non ho vinto, ma a questo punto, che ne so, un tot di parlamentari me li dovete mettere in lista. Ma guardi, questo sarebbe un discorso davvero davvero la vecchia politica, e mi stupirebbe molto che Matteo Renzi lo facesse, perché in fondo, insomma, questo è un sistema vecchio che abbiamo già visto e rivisto. Il segretario ha detto che qui non è un congresso, non si è decisa una linea del partito, ma sono state le primarie per individuare il candidato premier, e sarebbe spiacevole che ciascuno dei candidati andasse da Bersani a chiedere posticini e poltrone e poltroncine. Mi auguro invece che ci sia un discorso sereno, chiaro, sulla linea strategica che dobbiamo avere insieme per vincere le elezioni politiche. Credo che Matteo Renzi abbia avuto il merito di riuscire a portare delle istanze di una parte di elettori del centro-sinistra, o di una parte di elettori che evidentemente non avremmo intercettato. Per cui il nostro programma si arricchirà, così come si arricchirà delle istanze di Nichi Vendola, di Puppato e di Tabacci. Però è interessante, lo so, Ivan Scalfarotto, chiederete, perché usciamo un po' dal politichese, in realtà credo che chi ha fatto i calcoli ha scoperto che il 97% dei parlamentari attuali attuali si è speso per Bersani, era della linea programmatica di Bersani. Può Renzi avere un Parlamento prossimo che mantiene ancora queste cifre? Oppure, dice la Moretti, non si possono fare questi discorsi da vecchia politica? Io penso che effettivamente da questo punto di vista, appunto ammettendo la sconfitta, io devo dire che io sono ammirato dal risultato di Renzi, nel senso che il 40% avendo sostanzialmente avuto, non certamente il supporto del partito che era completamente, tranne rarissime eccezioni, schierate col segretario, e in questo ballottaggio anche tutti gli altri candidati che evidentemente hanno supportato il segretario, secondo me resta un risultato politico molto significativo. Però ha ragione secondo me Alessandra quando dice non è tanto una questione di poltrone quanto una questione che secondo me è molto più importante delle poltrone, di una questione politica, nel senso che Renzi ha, come diceva giustamente di nuovo Alessandra, parlato probabilmente a un elettorato che noi normalmente abbiamo più difficoltà a raggiungere, ha declinato alcune proposte in modo molto chiaro, penso al finanziamento pubblico, penso al no all'alleanza con Casini, penso anche alla linea politica sulla politica del lavoro di Pietro Ichino, tutti temi che in una campagna che si è detto essere molto una campagna personalistica, sì, invece erano secondo me gravi di conseguenze politiche. Ma anche perché lì però, Scalfarotto, che punto d'incontro c'è tra le due linee? Cioè Bersani dice per esempio il finanziamento pubblico deve rimanere e Renzi dice no, zero. Sulle linee è difficile trovare una sintesi su posizioni del genere. Sì, ma sai cosa c'è? Che noi siamo abituati poi anche allo congresso nel 2009, il principale avversario di Bersani poi è diventato uno dei più grandi alleati di Bersani, Dario Franceschini. Io penso che questa sia per la prima volta una primaria vera, nel senso che le due linee politiche erano alternative, ha vinto quella di Bersani. Io oggi ho letto appunto dichiarazioni di Stefano Fassina o di Nichi Vendola che indicano uno spostamento evidentemente a sinistra del partito. Per me il problema di Bersani sarà molto più che la composizione delle liste, sarà appunto quello di comporre una linea politica che gli consenta di governare in modo durevole e solido, e questo dovrà essere lo sforzo di tutto il partito, perché è lì che può eventualmente sorgere un problema, non tanto per il partito quanto per il paese. Intanto, prima di andare al traffico, Alessandra Moretti sa che Berlusconi era alla finestra e dopo la vittoria di Bersani già i giornali dicono beh, a questo punto è l'ultima mia possibilità ed è l'unica possibilità aggrapparmi al fatto che, siccome la linea del centrosinistra è Bersani, che non è certamente un nuovissimo della politica, a questo punto posso candidarmi anch'io. Avete sdoganato la possibile ricandidatura di Berlusconi? Ma guardi, Berlusconi dice una cosa un giorno e il giorno dopo fa esattamente il contrario, per cui non è diciamo in questo momento molto molto attendibile. Io mi sarei aspettata che Berlusconi aprisse alle primarie e desse la possibilità ai giovani del suo partito di misurarsi e di ritrovare molto entusiasmo, voglio dire partecipazione anche nel centrodestra. Abbiamo visto un centrodestra smarrito totalmente, un elettorato che non sa più dove e quali riferimenti ha, per cui sarebbe stato davvero molto molto positivo anche per noi, voglio dire, ecco. E se si candida? Se vista? Va bene, benissimo, guardi, noi siamo dell'idea che ci rafforzeremo, che da quel 31% che siamo arrivati, dal 26 al 31 nei soli dei mesi, nuovamente riusciremo, voglio dire, a crescere ancora e a un'idea di Italia, un'idea d'Italia che insomma avrà la fiducia e la credibilità da parte dei cittadini italiani. Sentiamo Luciano da Carrara, ci ha chiamato all'800 24 00 24. Luciano, buongiorno. Buongiorno, ma si sente malissimo. Mi sente? Insomma, ma che c'ha l'auricolare, il viva voce? No, sono al telefono. Vabbè, provi a dire. Io non sono un simpatizzante di Renzi, nonostante che sia toscano, ma avrei preferito che vincesse Renzi, perché continuare ad essere, ad avere questi sepolcri imbianciati della sinistra, che non sono stati capaci negli ultimi 20 anni di fare una politica chiaramente di contrapposizione a questo sistema, che aveva Berlusconi, non solo, ma che ci hanno consegnato nelle mani di Monti, che ci hanno veramente massacrato. Lei voleva Renzi. Allora, no, sì, il cellulare si prende malissimo. Comunque lei era per Renzi, perché questi sepolcri imbiancati del centro-sinistra non gli piacevano più. No, mi scusi Luciano, ma davvero si sentiva malissimo. Andiamo a Cagliari da Dante, buongiorno. Buongiorno Mila, mi sente? Benissimo, dica. Allora, io sono un elettore del centrodestra, avrei gradito ovviamente che vincesse Renzi. Perché però, ovviamente? Perché ovviamente? Sì. Ma che gli frega a lei se lei è del centrodestra chi vinceva il centrosinistra? Ma è perché mi sembra di poter avere più dialogo. Noi siamo del centrodestra, ma crediamo anche in un'alternanza. Non bisognerebbe avere dialogo tra centrodestra, cioè dialogo sì, però insomma anche più. Vabbè, comunque. Ma Milan lì sta sbagliando. Per costruire le cose bisogna, secondo me, bisogna farle anche assieme, bisogna dare un aiuto da tutte le parti. Comunque io credo molto nell'alternanza, visto tra l'altro quello che è successo al centrodestra e Confini che ha distrutto tutto, quindi si sperava che arrivasse qualcosa di nuovo anche dall'altra parte, perché uno può anche per 5 anni decidere di cambiare e dare il voto dall'altra parte. Quindi lei sperava in una vittoria di Renzi e adesso che succede? Adesso io spero a questo punto che Renzi faccia qualcosa di suo, perché credo che avrebbe preso e prenderebbe molti voti anche degli elettori del centrodestra. Le cose che dice sono attuali, sono da fare ora, quindi io mi auguro che faccia un suo partito. Ma guardi che questo è uno degli aspetti, Dante, lo giro subito a Ivan Scalfarotto, renziano, e anche Alessandra Moretti. Ivan Scalfarotto, l'ipotesi che Renzi comunque dica, invece di essere come dire inglobato in un partito dove i dirigenti poi mi terrebbero con le briglia strette, insomma, e sappiamo che lui, il personaggio tra l'altro, non è abituato a stare così, perché non l'idea di capitalizzare questi tanti voti, 1,5 milioni già presi, e fare un qualcosa di nuovo in questa politica nuova che avanza e buttarsi? E Dante dice: io dal centrodestra lo voterei, per esempio. Ma neanche per sogno. Neanche per sogno. Neanche per sogno. Guardi, perché la candidatura di Matteo, io credo sia stato un grande contributo a fare di questo paese un paese più in linea con le democrazie occidentali. Non si fa un altro partito proprietario con un nome e un cognome, ne abbiamo già abbastanza. Allora, abbiamo fatto una proposta politica agli italiani striamente dentro uno dei due grandi partiti, diciamo dentro il grande partito del centrosinistra riformista di questo paese. Gli italiani hanno avuto la possibilità di scegliere, secondo me, un candidato molto bravo, molto preparato, molto capace, e anzi per l'elettore di centrodestra dico anche un elettore secondo me più in grado di sconfiggere il centrodestra, quindi altro che secondo me è sbagliato dire che gli elettori di centrodestra dovessero simpatizzare per Renzi, perché secondo me, per esempio, in un dibattito con Berlusconi, voglio dire, sarebbe durato lo spazio di un'inquadratura, insomma. Perché? In che senso? Lo avrebbe asfaltato, lei dice. Ma significava uscire anche da una dinamica degli ultimi 20 anni e entrare probabilmente in una era nuova, quindi in una nuova generazione, in un nuovo momento. Invece, politico. Secondo lei, Bersani ha un po' sdoganato ancora la possibile ricandidatura? Finito il concetto. Quindi, evidentemente, non bisogna uscire fuori. Appunto, gli italiani, se volevano Renzi al governo, non dovevano fare altro che votarlo in questa situazione, cioè in queste primarie. Se così non è stato, appunto, è giusto che noi presentiamo Pierluigi Bersani, che ha, secondo me, delle grandissime qualità che tutti noi gli riconosciamo. Come Renzi ha detto spesso, si trattava appunto di decidere se voltare pagina e quindi dare mandato a un nuovo gruppo dirigente, una nuova visione, oppure riconfermare la fiducia a un gruppo dirigente conosciuto, provato, come si dice, l'usato sicuro, e fidarsi ancora di loro. Se questa è la scelta degli italiani, è bene che sia così. Bene che sia così. Alessandra Moretti, l'idea di un Renzi che in qualche modo possa fuoriuscire o creare un qualcosa di suo, ma suo non nel senso personalistico, ma suo, capitalizzando tutti i voti che hanno, è un'idea che secondo lei c'è nella testa di Renzi ed è un'idea che preoccupa il Partito Democratico o no? Ma guardi, non so cosa ci sia nella testa di Renzi, ovviamente, ma ripeto, non penso che ci sia questa eventualità. Noi dobbiamo adesso davvero, e l'appello che noi facciamo a Matteo è quello di mettersi a disposizione del partito, ma anche a disposizione dei suoi elettori, che credo non vogliano assolutamente nessun tipo di scissione. Insomma, ma se lo vede a disposizione dei D'Alema, dei Bindi... Ma scusate, ma dove li vedete? Nel senso che voi continuate a parlare di qualcosa che è molto lontano dalla realtà. Cioè, vi sta parlando una donna che non è certamente una funzionaria di partito. No, ma Rosy Bindi è presidente del Partito Democratico. Ma che c'entra? Ma Rosy Bindi, va bene, è presidente del Partito Democratico, ma in questi 2 mesi e mezzo voi avete visto, voglio dire, entrare sulla scena in maniera anche molto prepotente un gruppo di giovani nuovi, sì, che fa parte. Allora, voglio dire, parliamo di cose che ci sono, che ci stanno, non continuiamo a parlare delle favole e di quello che c'era e oggi c'è molto meno. È ovvio che Rosy Bindi c'è, come c'è Massimo D'Alema, e ci mancherebbe che non ci fossero, voglio dire. Però contano meno, diciamo. Ma contano meno, necessariamente stanno assumendo un atteggiamento utile a far spazio a una nuova generazione, come deve essere, e sulla quale Pierluigi Bersani ha molto lavorato in questi anni e si è visto. Quindi il nuovo che avanza c'è, in realtà siete voi, siete la nuova classe. Ma guardate, ma c'è da molto tempo. Io ho girato l'Italia e vi posso dire che ci sono migliaia di giovani amministratori, sindaci, consiglieri regionali, responsabili del partito, che hanno meno di 30 anni, 35 anni, una segreteria voluta da Pierluigi Bersani, sì, e Ivan Scalfarotto lo sa bene, sono tutti ragazzi under 40, non parlamentari, quindi certe volte mi verrebbe da dire ma di che cosa stiamo parlando? Voglio dire, poi se in televisione fino a 3 mesi fa chiamavate sempre la Bindi o Massimo D'Alema, non è un problema del segretario. No, ma guardi, poi noi Rosy Bindi l'ho intervistata una volta e ci ha fatto sapere che non era contenta delle domande. E D'Alema, figurarsi, non viene certo qui ai nostri microfoni. Intanto vi ringrazio, Alessandra Moretti, per essere stata con noi insieme a Ivan Scalfarotto. Ci fermiamo e ricordate di seguirci anche su Twitter, e l'appuntamento è a domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.